vedo il mio cammello con il corpo tutto giallo boccheggiare. E sotto il cielo, e sotto il cielo, file di scorpioni sulla sabbia. Sola è tutto un mondo contro me, mentre muoio e penso a te. Vedo mille brocche piene d'acqua sulla testa, volte già mi tiro su, mi tiro su. Alzo verso il cielo le mie mani, invocando la pietà, ma cado giù, ma cado giù. Questo è quello che tutte le notti sogno io, da quel giorno che mi hai detto addio. Torna, torna indietro, amore mio, non far così, sento che mi fai male.